Il Mar Nero, piccolo mare ma grande scommessa. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. In the mounting tension between great powers, the Black Sea holds a particular strategic importance. Burundians are electing a president competitively for the first time since a deadly years-long civil war. Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Sono le 16.08 e 08 secondi in questo esatto istante, una nuova puntata di Nessun Luogo Lontano per volgere ancora una volta lo sguardo al di fuori dei confini italiani. La squadra è sempre la stessa: Antonio Tali, Ilaria Sesana, Valentina Ternullo e Andrea Macchioni. Quest'oggi in assistenza Elisabetta Fusconi e in regia c'è Peter Bescapè. 349-238-6666, sms e whatsapp, domande e commenti per quello che è il tema principe di questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. Il Mar Nero, un quadrante sul quale si affacciano, un quadrante acquatico, ben sei paesi, tra cui due superpotenze che nelle ultime settimane abbiamo con dovizia di particolari raccontato, a volte per motivi diversi, dalla Russia fino alla Turchia. Perché è così importante questo specchio d'acqua salata e quali sono gli appetiti che si stanno concentrando appunto sul Mar Nero? Quest'oggi vi racconteremo una zona di mondo davvero poco raccontata ma estremamente importante. Oltre al 349-238-6666, naturalmente abbiamo sempre un occhio ai social. La pagina Facebook è Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24. Su Twitter invece ci potete cercare come Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Detto ciò, Peter, andiamo coi dossier. Sfogliare i nostri dossier internazionali significa andare a spulciare fra gli appunti che io e tutta la redazione di Nessun Luogo Lontano teniamo quotidianamente sui nostri tavoli, sulle nostre scrivanie. Sono spunti di riflessione, fatti, notizie che poi diventeranno approfondimenti nelle prossime settimane di Nessun Luogo Lontano. Ieri il presidente palestinese Abu Mazen, e così torniamo nel vicino Oriente, ha annunciato durante una riunione d'emergenza a Ramallah, dove c'è la sede dell'autorità nazionale palestinese, che la sua amministrazione considera nullo ogni accordo firmato sia con Israele che con gli Stati Uniti. Questa è la dichiarazione che attendevamo, la risposta evidentemente non poteva essere altrimenti, che arriva da Abu Mazen rispetto alla reiterata volontà e dichiarazione di volontà di annessione di parte delle colonie che sono in Cisgiordania. Abu Mazen ha detto che l'autorità israeliana deve assumersi tutte le responsabilità e gli obblighi di fronte alla comunità internazionale come potenza occupante sul territorio dello Stato della Palestina. Così ha tuonato il leader palestinese, che ha parlato in un discorso che è stato trasmesso dalla televisione palestinese. Un colpo in cerchio e un colpo alla botte, per così dire, perché ha ribadito allo stesso modo l'impegno palestinese a una soluzione del conflitto basata sulla soluzione dei due stati, con la disponibilità palestinese, leggo testualmente, ad accettare la presenza di una terza parte lungo i confini tra i due paesi. Sono moltissime le perplessità rispetto a questa dichiarazione. Da un lato ricordiamo che molti palestinesi da noi interpellati nelle ultime settimane hanno spesso ribadito che la Two State Solution è sostanzialmente morta, è lettera morta, perché di fatto si viaggia inesorabilmente verso la soluzione di un unico Stato. E poi Ali Abunimadi, Electronic Intifada, che è un giornale online che è molto attento evidentemente alla questione israelo-palestinese, ha detto: Mahmoud Abbas ha annunciato che non ricordo quante volte ha sospeso questo accordo o quell'accordo. Il fatto è che in realtà non l'ha mai fatto. La realtà è che l'autorità palestinese non può spostare una saliera da un lato del tavolo all'altro senza il permesso e l'aiuto degli israeliani. E qui, come dire, va a sottolineare quella che è la poca forza, il poco vigore anche decisionale, l'impatto che può avere sullo scacchiere da parte dell'autorità palestinese, che ricordo ai loro ultimamente non gode del favore dei palestinesi stessi. primi messaggi stanno arrivando al 349-238-6666 e tra pochissimo ve ne darò conto. Fatemi però raccontare quello che è accaduto nelle ultime due ore, non soltanto in Burkina Faso ma anche in Niger. Lo sapete che i nostri occhi sono spesso puntati sul Sahel, dove, lo ricordo, si è sostanzialmente formato un califfato 2.0 con un galassia estremamente frastagliata di gruppi jihadisti, ma che controllano ampie porzioni di territorio e soprattutto riescono a portare a segno molti attacchi, spesso contro gli eserciti locali, requisendo in questo modo veicoli e armi e dedicandosi poi a traffici illeciti. Fonti della sicurezza burkinabè hanno riferito che due soldati e cinque volontari della difesa civile sono rimasti uccisi in un'imboscata. La notizia arriva oggi, ma l'attacco risale a lunedì. Siamo nella provincia di Lorum, distaccamento militare di Ban, altri quattro militari erano rimasti feriti. Attacco rivendicato dall'alleanza jihadista che si cela dietro un acronimo, GSIM, il gruppo a sostegno dell'Islam e dei musulmani, la base nel Mali ed è affiliata ad Al-Qaeda. Perché ho indicato questi militari come volontari della difesa civile? Sapete che poche settimane fa il presidente burkinabè ha dato il via a quella controversa e contestatissima misura per cui anche civili burkinabè possono arruolarsi in queste milizie di autodifesa e con un breve training militare imbracciare dei fucili e contribuire a quella che è la sicurezza nazionale. Questo fatto in realtà ha portato anche a una serie di atti di violenza indiscriminati, perché è evidente che senza adeguato training, addestramento e senza un'adeguata selezione si forma una potenziale armata brancaleone, qua perdonatemi il termine forse un po' troppo prosaici. Nel frattempo, nelle stesse ore, in Niger 12 soldati dell'esercito regolare nigerino sono rimasti uccisi, 10 feriti in un attacco avvenuto nella base militare di Blabrin. Siamo nel sud-est del Niger, qua la rivendicazione è arrivata dal gruppo terroristico nigeriano Boko Haram. E ancora in Afghanistan, ancora a raccontare di tensioni e conflitti. Tra la serata di lunedì e ieri notte, scontri in diverse località del paese che hanno impegnato le forze di sicurezza afghane contro i talebani. Lunedì l'esercito di Kabul è riuscito a respingere vari attacchi nei distretti di Imam Saheb, Chardara, Kanabad, grazie anche all'ausilio dell'aeronautica. Proprio in una puntata speciale di Nessun Luogo Lontano vi raccontammo il dispiegamento delle forze da parte di Kabul, che ultimamente, avendo sostituito, piano piano stanno sostituendo i vecchi velivoli russi, si stanno dotando di supporto aereo, soprattutto i Black Hawk americani, elicotteri d'attacco, e con questo riescono in alcuni settori ad averla meglio sui talebani. 9 soldati afghani uccisi ieri nel distretto di Mandi Baudin, altrettanti caduti nel respingere un altro attacco talebano sempre a Kunduz. Da quello che si vede, da quello che battono le agenzie, c'è un rigurgito di violenza che già vi abbiamo raccontato qualche giorno fa, che nulla di buono lascia presagire. Attacchi multipli in tante località diverse. È evidente che il nuovo accordo tra Ashraf Ghani e Abdullah Abdullah, l'uno presidente, l'altro contendeva al primo la carica di presidente, ha dato immediatamente ai talebani il destro per dare una risposta immediata e sottolineare la estrema fragilità del governo di Kabul. E adesso ci fermiamo un attimino nello sfogliare i nostri dossier internazionali, perché in queste ore si sta votando in Burundi, che è un piccolo paese. Sto citando Gael Faye, grande scrittore burundese. Piccolo paese il Burundi. Nei giorni passati, siamo nella zona dei Grandi Laghi, Africa subsahariana, è un vero e proprio termometro, se volete, della zona dei Grandi Laghi, includendo anche Repubblica Democratica del Congo e Ruanda, una zona che è stata funestata negli anni 90 ma anche più recentemente da scontri etnici violentissimi. Al di là del genocidio, già in Burundi vi erano state avvisaglie negli anni precedenti. Nei giorni passati Unione Africana, ONU e Unione Europea hanno espresso preoccupazione per gli scontri tra i sostenitori delle forze politiche rivali, proprio a pochi giorni dal voto che si sta svolgendo oggi. Secondo molti attivisti, almeno 150 membri dell'opposizione sono stati arrestati dall'inizio della campagna elettorale, che è partita solo 3 settimane fa. Il presidente attuale Nkurunziza, che è al potere da 15 anni, non è in corsa per la rielezione, ma molto ragionevolmente cercherà di portare qualcuno di fidato per continuare a detenere il potere. I seggi elettorali aperti dalle 6 alle 16 di oggi, ora locale. Vi segnalo un ultimo aspetto: il governo ha espulso la settimana scorsa il capo nazionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità perché sostanzialmente vi era forte disaccordo e ingerenza, secondo Nkurunziza, da parte dell'OMS nelle questioni sanitarie burundesi. Paese di 11 milioni di abitanti, solo ufficialmente 42 casi di coronavirus e un decesso, però cerchiamo di capire meglio l'importanza di questa tornata elettorale con Donatella Rostagno, analista indipendente, da anni fa ricerche anche sul campo, sulle questioni geopolitiche e di sicurezza della zona dei Grandi Laghi. Donatella, buongiorno, ben ritrovata. Buongiorno Giampaolo. Allora, perché Grazie. È importante il voto di un piccolo paese di 11 milioni di abitanti incastonato in quella zona d'Africa? Ma il voto è importante e qui sottolineo alcuni degli elementi che tu hai già citato. Innanzitutto perché la stabilità di tutta la regione dei Grandi Laghi è molto importante e dipende dalla stabilità singola di ognuno dei paesi della regione. Quindi anche se il Burundi è un paese piccolo con 11 milioni di abitanti, come dicevi tu, le sfide interne e esterne sono enormi, è un paese con un altissimo numero di rifugiati e di sfollati e quindi comunque ovviamente le problematiche a livello regionale sono grosse, sono grandi. Il secondo elemento che vorrei citare è che per capire insomma perché queste elezioni sono importanti è che, come dicevi tu, in una regione, in una zona dell'Africa in cui di solito si tende a voler mantenere il potere, il presidente uscente Pierre Nkurunziza, in realtà, che aveva già forzato la mano nel 2015 per mantenersi per un terzo mandato alla presidenza, ha deciso, contrariamente a quanti molti di noi avevamo previsto, sì, di non presentarsi come candidato e quindi ha lasciato, diciamo, spazio a un altro candidato che poi è l'ex segretario generale del partito al potere, che si chiama Evariste Ndayishimiye, e in questo modo ha dato quindi un messaggio importante di volontà, almeno apparente, di alternanza democratica. Ecco, hai detto apparente alternanza democratica, questo è forse un grande classico di quella regione, la regione dei Grandi Laghi, lo abbiamo visto anche in Repubblica Democratica del Congo con l'uscita di scena di Joseph Kabila, ma poi sostanzialmente con una sorta di delfino al suo potere, un Kagame che invece, Paul Kagame, grande eroe della liberazione dopo il genocidio Tutsi, che rimane saldamente al potere, invece Nkurunziza che prova a uscire di scena, a fare un passo indietro, forse un passo laterale. Passiamo sul piano prettamente politico, Donatella Rostagno, c'è il rischio di una deriva autoritaria nonostante il cambio di presidente che avverrà ragionevolmente in queste ore, insomma, mentre si vota? Ma io risponderei di sì alla tua domanda, soprattutto perché la deriva antidemocratica c'è in realtà dal 2015, cioè dall'anno delle ultime elezioni. Da quell'anno ci sono molti atti di violenza e soprattutto si è delineato un partito d'opposizione, il CNL di Agathon Rwasa, e gli scontri e le violenze tra i rappresentanti dei due partiti, quello al potere e questo dell'opposizione, sono stati molti, con molte vittime, come tu lo dicevi anche. Sì. E quindi questo è uno degli elementi. La campagna elettorale anche è stata macchiata da vari atti di violenza nelle campagne, soprattutto, e soprattutto nei confronti anche delle sedi del partito d'opposizione. Quindi questo è anche uno degli elementi che fa purtroppo che preoccupa. E forse ultimo elemento tra vari è quello dell'assenza di osservatori internazionali. Sì. Di solito in queste elezioni ci sono osservazioni internazionali, in questo caso non ci sono, nonostante, come tu abbia detto, l'Unione Europea e le Nazioni Unite si siano espresse, in realtà insomma l'intervento di queste istituzioni internazionali non è molto forte. La frode e le frodi, insomma gli atti di frode, possono essere molto diffusi nell'assenza di osservatori, e quindi le notizie che arrivano oggi dal Burundi, che mi arrivano e che ci arrivano dal Burundi oggi, non sono molto rassicuranti. Se vuoi, per concludere, sì, la cosa importante è che sarà da vedere non tanto oggi, perché la giornata si sta svolgendo fondamentalmente in maniera abbastanza tranquilla, ma sarà vedere come il partito d'opposizione, che crede di essere molto forte, che sa di essere molto forte, reagirà nel momento in cui nei prossimi giorni ci sarà la dichiarazione del vincitore. Sì, grazie mille a Donatella Rostagno, analista indipendente, per anni ha consumato scarponi e voce e testa nel cercare di comprendere queste complesse dinamiche lì nella zona dei Grandi Laghi. Donatella, grazie mille, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. Peraltro faceva riferimento Donatella alle poche notizie che riusciva a ottenere, non era un vezzo, un personalismo, Twitter e tutti gli altri social sono assolutamente bloccati, per cui questo da alcuni giorni, per cui se non si hanno contatti in loco, diretti e fonti primarie è assolutamente impossibile capire cosa stia avvenendo. Detto ciò, Peter, adesso andiamo a parlare del Mar Nero, andiamo a lambire le coste di quei sei paesi che si affacciano su questa grande cerniera fra Asia e Europa. L'importanza del Mar Nero, un specchio d'acqua molto molto poco raccontato, ma che in realtà è una formidabile cerniera perché consente ad alcune potenze di avere uno sbocco sul Mar Mediterraneo, non per citare in maniera pedissequa quel formidabile libro di Tim Marshall, 10 mappe che spiegano il mondo, che racconta esattamente per esempio delle ambizioni russe su quel mare. Perché se non hai una flotta che possa galleggiare su mari caldi, e la Russia ne sa qualcosa, sostanzialmente non potrai mai ambire ad essere una vera potenza regionale. Di questo, ma non soltanto, parleremo in questa ampia pagina di Nessun Luogo è Lontano. Fatemi tornare però ai vostri messaggi, alle vostre sollecitazioni al 349-238-6666. C'è qualcuno che torna sulla questione israelo-palestinese, ma Abu Mazen, che interesse avrebbe a essere incisivo, considerata l'impotenza palestinese, essere irrilevante la migliore garanzia che Israele lasci Fatah al potere con tutti i benefici economici che comporta. E così un ascoltatore che fotografa in maniera molto cinica e molto lucida però la situazione, ma mi permetto di aggiungere una cosa, che c'è una palpabile, e l'ho constatato con mano, ormai irritazione da parte di buone fette della popolazione palestinese, soprattutto i giovani, tutto l'ambiente universitario, rispetto alla gestione da parte dell'autorità nazionale palestinese del potere. E poi mi permetto di aggiungere un'altra cosa a questa questione ormai pluridecennale, come dire, se l'autorità nazionale palestinese non riesce a portarsi a casa qualcosa politicamente, ma questa è una mia personalissima opinione, è destinata comunque a sfibrarsi, a logorarsi, a non avere più presa, e io ho la sensazione che questo stia già avvenendo e lo vedremo anche nelle prossime settimane. Non è un caso che molti palestinesi mi abbiano detto la soluzione dei due stati è totalmente inapplicabile, non abbiamo fiducia né in Fatah né in Hamas, e quindi che faccia Israele quello che deve fare, ma che ci conceda almeno i diritti da cittadino. Allora, proviamo a inquadrare l'importanza del Mar Nero, più economica o più strategica, un mare che fa da cerniera, due quadranti totalmente diversi, e proviamo a navigare virtualmente, ovviamente, tra quelle onde. Lo facciamo con Giorgio Cella, analista per il NATO College Foundation, fra le altre cose. Cella, buongiorno, ben ritrovato qui a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno, buongiorno a lei. Allora, difficile tratteggiare l'importanza del Mar Nero perché innanzitutto è molto poco raccontato sui media, direi italiani non c'è dubbio, ma anche internazionali. Eppure recentemente gli appetiti si fanno sempre più, più forti. Recentemente lei ha scritto un paper proprio su questo tema. Ci spiega in sintesi qual è l'importanza di questo mare? Sì, innanzitutto diciamo che a volte il Mar Nero scompare dai radar mediatici, forse nostri, diciamo, perché immagino che in Turchia e in Ucraina, e non immagino ma lo so, come in Russia, l'attenzione verso quest'area è sempre altissima, specie dal 2014 in poi, cioè con l'annessione della Crimea nella Federazione Russa e la crisi ucraina, eccetera, eccetera. Vorrei però, se me lo consente, fare una piccola, un breve spunto storico, perché sì, questo è un luogo di antichissime dispute, in una sorta di triangolazione conflittuale tra chi? Tra Russia, Turchia e anche nel suo più contestuale ruolo geopolitico l'Ucraina. Contestuale poi fino a un certo punto, perché il ruolo dell'Ucraina è stato e sarà ancora molto, diciamo, centrale e strategico all'interno delle dinamiche sia NATO sia nei rapporti, diciamo, euro-russi. Sì. Questo è un luogo, tra l'altro, come dicevo, di antiche conflittualità. È lì che sono nati la prima, è lì che è nata la lista di guerre infinite nell'area Mar Nero tra turchi e russi, cioè la cifra dei rapporti russo-turchi è, diciamo, di base conflittuale, e trova proprio nel Mar Nero, tra l'altro, quel luogo, quel hotspot, diciamo, conflittuale originario dei rapporti sempre tesi. Ultimamente abbiamo visto che ci sono state delle fasi di appeasement tra Ankara e Mosca. Sì. Che però non devono, diciamo, dare illusioni così utopistiche di una, così, una pace perpetua tra le due potenze continentali e regionali. Poi, diciamo, definirle è sempre difficile, no? Mi ricordo che tentò di farlo Obama, facendo arrabbiare molto Putin, quando disse che la Russia non era una potenza internazionale ma continentale, quindi ecco, non mi ci voglio mettere. Non vuole far arrabbiare Putin, ecco, anche lui. No. tra queste due potenze il Mar Nero è fondamentale. Abbiamo visto la questione ucraina, però adesso c'è una sorta di appeasement tra i due colossi, diciamo, sì, regionali, perché devono gestire dossier importanti, sia quelli di, che devono farlo, diciamo, a quattro mani, cioè deve esserci una cooperazione ispirata, diciamo, a così uno spirito irenico, no, quantomeno. Sì. E questo è, cioè, il Turkish Stream, il progetto, il grande oleodotto, no, che sì, è appunto russo-turco, che ha ovviamente un valore per l'economia russa fondamentale, e l'economia russa oggi non se la passa affatto bene. Il Covid sembra essere un po' più grave di quello che si pensava. Sì. Quindi poi c'è la questione siriana, dove anche lì ovviamente sappiamo tutta la, diciamo, i meccanismi diplomatici instaurati da Putin, Erdogan e Rouhani, sì, che hanno gestito finora, gli unici che l'hanno gestita, diciamo, la questione siriana. Stessa cosa per la Libia. Anche in Libia c'è un continuo, diciamo, gioco diplomatico di carte coperte, di sostegno a una fazione all'altra, ma non si arriverà, io credo, a nessun tipo di scontro frontale in queste due aree. Sì. Il Mar Nero, invece, come da lei gentilmente rammentato poc'anzi, nel paper che appunto ho appena scritto per NATO Foundation, sì, ci sono gli elementi, tra l'altro atavici, secolari, di un potenziale attrito maggiore rispetto a questi due teatri. Perché ho cominciato per l'appunto con uno spunto storico, cioè sì, queste sono le stesse, diciamo, aree in cui la Caterina II, la zarina Caterina II, conquistò la Crimea. Cioè, quando si parla oggi di Crimea, chi è che c'era in Crimea al tempo? Non c'erano né turchi né slavi russi, sì, era minoranza, eccetera, ma la maggioranza era di questi così, no, misteriosi crimeani che oggi stanno ancora in Crimea. Io, Cella, devo un attimo interrompere questo interessantissimo tuffo nel passato, perché c'è la borsa che incombe, ma intanto è interessante, prego gli ascoltatori di stare qui con noi, perché sostanzialmente sta dicendo Cella, NATO Foundation, attenzione, perché lo scontro fisico, quello face to face, che non è avvenuto in Libia, che non è avvenuto in Siria, beh, potrebbe avvenire tra le acque del Mar Nero. La borsa, state con noi. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta... Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. In questa puntata di Nessun Luogo Lontano ci stacchiamo per un attimo dalla strettissima attualità internazionale. Proviamo a indagare uno specchio d'acqua, il Mar Nero, che molto spesso è fuori dai radar, come diceva il nostro ospite Giorgio Cella, analista per il NATO College Foundation, fuori dai radar, dai media, dai racconti mainstream. Eppure importante, importantissimo. Ne sia la prova una domanda che ci fa un ascoltatore al 349-238-6666. Intanto chiede perché si chiama Mar Nero e poi dice: ci sono riserve di gas e petrolio nei fondali del Mar Nero e nei Saipem dovrebbero avere interessi che l'area del Mar Nero sia in equilibrio e in relativa pace, o sbaglio? Se non erro, e qua faccio appello alla mia memoria, un paio d'anni fa proprio nei Saipem dovevano iniziare una serie di trivellazioni proprio per riserve di gas o di petrolio. Mar Nero, ma qua chiedo aiuto anche a Giorgio Cella, sempre se non erro, è, come dire, il contraltare del Mar Bianco, che è il Mediterraneo, quindi sostanzialmente uno a nord nero e uno a sud bianco. Giorgio Cella, analista per NATO Foundation, ancora una volta ben ritrovato. Grazie, sì, esatto, questa era, diciamo, l'antica, no, antitesi. Però eravamo rimasti alla questione dei tatari crimeani, che sì, a breve ricollegherò alla più stretta geopolitica. Sì. Tatari crimeani, avevamo detto, no, al tempo addirittura di Caterina II, che aveva liberato, diciamo, occupato, aveva conquistato la penisola crimeana. Oggi i crimeani di i tatari crimeani sono oggetto anch'essi di contesa, sempre tra, guarda un po', tra Turchia e Russia. Oggi, dicevamo, l'area Mar Nero può essere quella che può provocare più attriti, sì, tra Mosca e Ankara, per un tot di questioni. Allora, concernono tutte la Turchia, perché Erdogan vuole, diciamo, rappresentare tutta la umma islamica, cioè tutto il mondo islamico, la comunità islamica mondiale sunnita. Sì. E quindi sì, diciamo, vuole prendere sotto la sua ala di protezione anche i crimeani, i musulmani, i tatari crimeani della Crimea, per l'appunto, che hanno avuto un po' di attrito con i russi dal tempo dell'occupazione, annessione nel 2014 in poi. Sì. Anche se adesso i russi stanno tentando, diciamo, di aggraziarseli, cioè ad esempio, sì, con una sorta di processo di normalizzazione, per sì, così ma dire, anche di, diciamo così, di così rinvigorimento dell'identità tatara. Si sì, parla di una nuova moschea a Simferopoli, un'altra. Sì. Ma in proposito, chiedo scusa, cioè la interrompo perché intanto sì, un ascoltatore scrive: volevo sapere se la Crimea può tornare a essere ucraina. Io penso decisamente di no, così Giancarlo, direi che la longa manus di Mosca è ben saldamente su quel lembo di terra, su quella penisola, perché Giorgio Cella, proviamo a spiegare l'importanza dell'accesso al mare per Mosca sul Mar Nero e poi conseguentemente sul Mediterraneo tramite il Bosforo. Mi obbliga a tornare alla storia sia lei che l'ascoltatore. Allora, è una delle linee guida della politica estera russa dai tempi di Caterina II, di Pietro il Grande, quella dell'accesso ai mari caldi. Questo accesso ai mari caldi si ottiene tramite il controllo previo dell'anticamera, diciamo, del Mar Nero, per giungere, sì, appunto, ai mari, al mar Mediterraneo. Mediterraneo. Io peraltro citavo, Giorgio Cella, all'inizio trasmissione, il libro di Tim Marshall, quelle mappe che spiegano il mondo, e viene spiegato come sia importantissimo per la flotta, per una proiezione navale russa, avere un comodo accesso al Mar Mediterraneo. È vero che ci sono le basi, quelle sulle coste siriane, ma evidentemente Mosca ha necessità di proiettarsi anche su mari caldi e non soltanto sui mari del nord, che poco possono offrire. Poi anche offrire lì la questione, sì, crimeana, voglio dire, risale ai tempi, no, di Khrushchev, quando nel 1954 decise di regalare all'Ucraina, ma era una sorta di regalia imperiale, no? Cioè immettere nella sovranità ucraina la Crimea, ma era tutto fatto, diciamo, all'interno di una cornice sovietica, no? Non so se è un po' difficile la questione da spiegare, ma è una questione appunto di sovranità, no? Sì. E oggi ovviamente i russi hanno sostenuto Putin in pieno nella riconquista della Crimea per questioni per l'appunto identitarie, la maggioranza del popolo è, diciamo, di etnia slava, no? Di matrice, sì, così slava ortodossa, quindi diciamo c'è stato anche un backup forte popolare. Ritorno alla questione dei crimeani e del Mar Nero in sé e di Erdogan. Sì, torniamo al momento attuale, Giorgio Cera, sì, che è quello che più interessa al momento. Esatto, alla questione che si vuole porre anche come protettore di tutta la Umma, anche nel Mar Nero, in cui ovviamente la Turchia ha interessi strategici. E poi non dimentichiamoci che la Turchia di Erdogan non ha mai, ha da sempre condannato l'annessione alla Russia della Crimea, sì, cioè non ha mai condonato, non è mai stata, diciamo così, opaca nei, sì, confronti della questione, sì, ha da sempre negato, sì, l'appartenenza della Crimea, e quindi la considera illegale come la stragrande maggioranza dei paesi della comunità internazionale. Certo. E qui mi rifaccio alla domanda del lettore, sì, tornerà mai l'Ucraina, per non lasciare, ecco, niente di non detto, tornerà mai la Crimea all'Ucraina? Allora, oggigiorno è palese che da un punto di vista, diciamo, realista, fin quando quantomeno c'è Putin, fino all'era Putin, che la Crimea torni, diciamo, sotto sovranità ucraina. Questo lo si può, diciamo, constatare da un punto di vista meramente obiettivo, no? E realista. Poi che le cose cambino l'indomani, questo ovviamente bisognerebbe essere visionari, sì, non analisti. Saper sfregare la sfera di cristallo. Intanto la interrompo perché ci sono un po' di messaggi. La questione Crimea, Ucraina, interessa e scalda sempre gli animi e le menti. Scusi, una cosa sola sull'Ucraina, dal punto di vista mediatico anche, e nella diplomazia internazionale se ne parla meno della sovranità ucraina sulla Crimea. Sì. Cioè, voglio dire, è un qualcosa, non dico dato come dato di fatto, certamente, perché dal punto di vista del vituperato ormai è trascuratissimo diritto internazionale, la Crimea è, diciamo, illegale, no? Sì, sarebbe, sì, illegalmente annessa. Però, ecco, diciamo, sia dal punto di vista mediatico si sono abbassati i fari, sì, dell'attenzione, sia dal punto di vista diplomatico, anche internazionale, diciamo, se ne parla meno, è una sorta di questione congelata. Su quello non ci piove, voglio dire, è uno degli attori che avrebbe potuto far sentire la propria voce, parlo di Unione Europea, francamente, al di là di un po' di sdegno, non ha fatto tantissimo. Sì, ma con l'indignazione nelle relazioni internazionali non si va da nessuna parte, assolutamente. Dalla voce di Giorgio Cella, analista del NATO College Foundation, alla vostra, al 349-238-6666, un po' di domande sul ruolo strategico che riveste il Mar Nero. Gli interessi sono tanti, da quelli turchi a quelli ucraini, evidentemente ucraini, e a quelli russi, ma poi parleremo anche di Romania, attenzione. Stavo cercando il messaggio, eccolo qua. In Crimea sono stati ben felici di passare sotto Mosca, i dipendenti pubblici hanno più che raddoppiato lo stipendio, per esempio, così ci scrive un ascoltatore, deve essere ben informato, ma non posso né confermare né smentire. Militarmente parlando non mi pare una grande idea per i russi, scrive un'ascoltatrice. Mar Nero e poi Bosforo sono facilmente controllabili anche da un potenziale nemico, e immagino faccia riferimento a una presunta superiorità aerea della NATO. Torneremo anche su questo punto, ma soprattutto, Giorgio Cella, ci concentreremo anche sul Bosforo, che è il vero punto di accesso, perché poi se vuoi essere una potenza navale non puoi fermarti sul Mar Nero, devi poi accedere al Mar Mediterraneo, causando qualche mal di pancia alla NATO. Cella, stia con noi, andiamo a sentire come vanno le strade italiane, poi l'ultima pagina di Nessun Luogo. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Le ambizioni della Russia di Putin anche sul Mediterraneo, attenzione, questo è il senso, uno delle letture che si possono dare sugli appetiti russi sul Mar Nero, ma poi c'è sempre Erdogan, c'è la Turchia e poi c'è l'Ucraina che in qualche modo è stata ferita con quelle due annessioni, con quelle due regioni, maggioranza russofona è vero, ma contrario alla legge internazionale. E nel frattempo un ascoltatore al 349-238-6666 porta anche la sua esperienza. 4 anni fa, racconta, sono stato in Ucraina, la zona in cui i russi hanno invaso, un assurdo storico col silenzio compiacente di tutto il mondo. Così Damiano da Roma. Abbiamo citato il Bosforo perché... Perché il Bosforo? Beh, perché se dobbiamo parlare di proiezione navale, dal Mar Nero bisogna passare al Mediterraneo e quindi, gioco forza, passare per questo tratto di mare, una delle vie di comunicazione marittime forse più contese, più trafficate al mondo. Abbiamo provato a fotografarlo in 90 secondi. Lungo appena 31 chilometri, il Bosforo è una delle vie di comunicazione marittima più contese e più trafficate al mondo. Collega infatti il Mar Nero, su cui si affacciano Bulgaria, Romania, Ucraina, Russia, Georgia e Turchia, con il Mar di Marmara, che garantisce l'accesso al Mediterraneo. In base ai dati del Ministero turco dei Trasporti e delle Infrastrutture, nel 2019 sono state più di 41.000 le imbarcazioni che hanno attraversato il Bosforo, per un totale di oltre 638,9 milioni di tonnellate di merci. La maggior parte del traffico marittimo è composto da navi cargo, oltre 18.000, di cui circa 9.000 dedicate al trasporto di gas, petrolio e prodotti chimici. Il Bosforo è anche uno degli stretti più difficili da percorrere. Le forti correnti che lo attraversano e la larghezza ridotta, nel punto più stretto si estende per appena 500 metri, rendono difficile il transito alle grandi navi cargo e alle petroliere. Per secoli, il controllo del transito delle navi attraverso il Bosforo è stato esclusivamente nelle mani dei sultani ottomani. Ma verso la fine del 600, la Russia dello zar Pietro il Grande ha iniziato a contendere al sultano il controllo di questa preziosa via marittima. Obiettivo: affacciarsi sul Mar Mediterraneo. Ancora oggi, per la Russia l'accesso al Bosforo è fondamentale. Da qui, infatti, transita il 38% del petrolio esportato via mare da Mosca. Il Bosforo è la prima via di export di petrolio anche per paesi come Azerbaigian e Kazakistan. Si stima, infatti, che circa 20 milioni di tonnellate di petrolio passino ogni anno attraverso lo stretto. Oggi il traffico nello stretto del Bosforo è regolato dalla Convenzione di Montreux, firmata nel 1936, che garantisce il diritto di passaggio alle navi commerciali di tutti i paesi, ma impone dei limiti al transito di navi da guerra. Ed ecco fotografata ancora una volta l'importanza del Mar Nero, perché se vogliamo collegare Mar Nero a Mar Mediterraneo e proiettarci in questa zona dell'Occidente, dobbiamo gioco forza passare dal Bosforo. Non è un caso che vi sia un progetto Canal Istanbul, un mega progetto promosso da Erdogan negli ultimi anni, canale artificiale 45 km per collegare Mar Nero con Mar di Marmara e in qualche modo andare a, permettendo un ampissimo numero di imbarcazioni, il passaggio di tante imbarcazioni, andare a decongestionare un po' il Bosforo. Con Giorgio Cella, analista per il NATO College Foundation, stiamo cercando di analizzare non solo l'importanza del Mar Nero, ma anche a che scenari potrà portare, naturalmente sempre con l'aiuto di voi ascoltatori. E in particolare, Giorgio Cella, le sottopongo la domanda che fa un ascoltatore: ma Erdogan non potrebbe bloccare lo stretto alle navi russe per andare dalla Crimea fino al Mediterraneo? E qui ci sarebbe l'attrito di cui parlavamo prima. Giorgio Cella. Sì, allora, no, una piccola, diciamo, così, precisazione. Ci sono crisi regionali e crisi regionali. Crisi regionali che vengono mantenute, diciamo, più in un ambito locale ed altre che invece hanno diramazioni globali. Quella del Mar Nero potrebbe essere una di queste, come lo è stata la crisi ucraina, l'annessione della Crimea, eccetera. Sì. Rispetto, per esempio, a una guerra russo-georgiana, ecco, che si è un po' poi contenuta lì. Allora, detto questo, chi controlla gli stretti, questi famosi stretti in Turchia, li controlla Ankara dal 1936. Ho visto che anche il servizio, con piacere, si è, diciamo, immerso nella storia, sì, quantomeno contemporanea, andato, sì, un po' meno indietro di me, ma voglio dire, ha parlato della Convenzione di Montreux. La Convenzione di Montreux è quella che ha regolato uno dei pilastri strategici geopolitici del Mar Nero, che fino ad oggi ha regolato il traffico, il numero di navi che possono entrare, sì, tonnellaggio, la, diciamo, la grandezza di queste navi militari. Oggi che cosa succede? Questo è, diciamo, anche la questione contemporanea su cui poi ho sviluppato il paper, sì, citato inizialmente. La questione è che Erdogan, nelle sue manie, io non direi di grandezza, ma diciamo imperiale, no? Come ce l'ha anche Putin, come ce l'hanno altri attori, diciamo, così un po' autoritari. Sì, il sultano, vuole, come l'Economist l'ha spesso ribattezzato. Ecco, nuovo sultano, nuovo zar, eccetera. Cosa vuole fare Erdogan? Erdogan vuole costruire un secondo canale di Istanbul. Questo ovviamente prima di tutto sarà un diciamo un'opera faraonica, un'opera faraonica che ha tra l'altro così fatto scattare proteste di ambientalisti, eccetera, sì, eccetera. Oltre 70.000 firme di cittadini che sono contrari al progetto, c'è un impatto ambientale molto discutibile, però c'è Erdogan quando decide di costruire, costruisce, non c'è molto da fare. Appunto, io dubito che ci sia qualcuno che possa, diciamo, fermarlo, ecco, sì, diciamo. Sì. I russi in questo perché sono, diciamo, un po' vedono con preoccupazione la costruzione di questo secondo canale? Perché vedono semplicemente, evidentemente, dietro a questo progetto un possibile cambio delle regole di navigazione all'interno dello stretto. Cioè, quindi i russi hanno avuto un rapporto molto ambiguo con la conferenza, con la convenzione e le disposizioni sì, di Montreux, sì, però diciamo che adesso la vedono come un qualcosa di positivo a, sì, fronte di un possibile nuovo canale molto più largo in cui possono passare navi militari. E questo è il punto, o di chissà chi, perché il progetto sarà terminato, se parte, eccetera, nel 2023. Sì. Da qui al 2023 siamo oggi in stato di pandemia che, diciamo, ha già un po' cambiato le cose, no? Può cambiarle, anche se le linee, diciamo, del confronto geopolitico, come per esempio nel Mar Nero, non cambiano affatto, lo, sì, vediamo. Ecco, voglio dire, da qui al 2023 possibile che le cose cambino, forse non saranno solo le navi del Mar Nero a spaventare i russi, no? Certo. Allora, ci sono un po' di ascoltatori, Giorgio Cella, lo ricordo, sì, nato College Foundation, esperto soprattutto della zona Federazione Russa, Ucraina. Ankara non può permettersi il blocco ai russi, immagino che saranno per la maggior parte navi che passano dallo stretto. Gli americani, un altro ascoltatore, cosa pensano della situazione nel Mar Nero? Trump ha altri problemi a cui pensare? E da che parte sarebbe Russia o Turchia? Beh, insomma, la Turchia è membro della NATO, attenzione, non dobbiamo mai dimenticarlo. Quel flirt da tutti battezzato come demoniaco, quella vendita delle batterie missilistiche S-400. Ma quelle sono cose tattiche, voglio dire. Però comunque sono sistemi missilistici antinato dentro un paese della NATO, no? Questo vuol dire l'ambiguità di questo strano rapporto. Ci sarebbe un'altra domanda, io prometto, garantisco agli ascoltatori che torneremo su questo tema e ci sentiremo sicuramente ancora una volta con Giorgio Cella, che ringrazio per essere stato con noi, analista NATO College Foundation. Buona giornata Cella, buon lavoro, alla prossima. Il preludio ai titoli di coda e ringraziamenti a voi per essere stati all'ascolto, a tutta la squadra e Nessun Luogo. L'appuntamento è per domani, ore 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.